mirabile passione, mi leggi dal tuo sguardo, non posso stare senza toccarti e non baciarti. Meticolosità, il mio pasto non è dolce, se si prenderà la bocca che mi piace, tradire non fa male se al pensiero di negarsi, la finzione rende onore ai dilemmi dell'amore. Lasciami da solo.